Ho vita classico, flow che mastica, nucagna metrico, rap eclettica, tra me te non c'è paragone, già lo sai, le mie rime un calcio volante, 619. La vera vita non è quella dei sogni, reale l'imperativo dei miei giorni, capo di me stesso, frate non ho mai smesso, da qui io non mi sposto, mi prendo il mio spazio, freestance e frank è una super connessione, sul beat top rap non c'è questione, quante corse per dimostrare chi sei, tante borse sotto gli occhi solo per lei, dammi un attimo di fiato, sempre gasato, ho la guerra in testa nelle cuffie rap soldato, cronache di vita, arriviamo al dunque, il vero riconosce il vero sempre e comunque. Scorro come nuvola, nudi in bassa e lontana, assegno porto pugni e resta poveri in mano, parlamo tra compagni, ero presente tu passato, quando a fine serata non passava ni razzata. Scorro come nuvola, nudi in bassa e lontana, assegno porto pugni e resta poveri in mano, parlamo tra compagni, ero presente tu passato, quando a fine serata non passava ni razzata. Ti tengo il tempo come un nerd al primo appuntamento, vestito nero sono in lutto per il tuo talento, ho così tanti concetti tra poco scoppio, sono lo stesso solo che fumo e bevo il doppio, sì ma non scappare dai problemi, anche se corri a più non posso, quelli fra rimangono impregnati addosso, ridi o sei morto, magro per carestia, il primo passo per l'appagamento, l'autoironia, io faccio rap perché parlo troppo poco, solo per compensare la mia valvola di sfogo, vi affogo, stono ma vi detesto, tanto non capite un cazzo di ogni mio testo, odio le persone stupide per carità, voi contro me come un appunto e una Cadillac, ma ci sta, scappe la griff sulla fronte, vi chiudo mezza barra e già si attaccano le punte. Scorro come nuvola, nudi in bassa e lontana, assegno porto pugni e resta poveri in mano, parlamo tra compagni, ero presente tu passato, quando a fine serata non passava ni razzata. Scorro come nuvola, nudi in bassa e lontana, assegno porto pugni e resta poveri in mano, parlamo tra compagni, ero presente tu passato, quando a fine serata non passava ni razzata. Come nuvola, nudi in bassa e lontana, assegno porto pugni e resta poveri in mano, parlamo tra compagni, ero presente tu passato, quando a fine serata non passava ni razzata. Scorro come nuvola, nudi in bassa e lontana, assegno porto pugni e resta poveri in mano, parlamo tra compagni, ero presente tu passato, quando a fine serata non passava ni razzata. Yeah, cronache di vita, Boccenze e Frank al rap, Freestmaker alla produzione, Salerno, Napoli, Roma in connessione. Yeah.